Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta. Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto, anzi, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella, però, insomma, in realtà non è che possiamo, siamo uomini, non siamo mica... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lei cos'è nato? In un cortile oppure nato da una madre che le ha insegnato qualche cosa? Sua madre che cosa le ha insegnato da piccolino? Allora, avvertenza prima di iniziare, avvertenza per chi ci ha preceduto, caro Parenzo, cioè il signor Barisoni, che ha dimenticato qui il suo portafogli. Ma allora, basta. No, aspetta, no, davvero è così. Ma perché lo lascia tutte le volte portafoglio, telefono, chiavi? Allora, voglio fare una piccola ispezione. No, possiede, sì, come no? No, no, violazione della privacy, dice. Beh, assoluta. Allora, ci sono innanzitutto, beh, insomma, 150, 170, 190 200 210 215 euro. Spettacolare. 215 euro in contanti, eh? Amico mio, vai e giri con 215 euro in contanti. Che cazzo ci fai con 215 euro in contanti? Ancora come i vecchi, quei portafogli grossi. 100 pesa pure, no, di un peso notevole, sarà almeno mezzo chilo. Ci sono 6-7 carte di credito. Beh, 6-7 carte di credito. Tessera della tessera varie, adesso diciamo subito, c'è la tessera della Coin, vabbè, tessera della Coin. Tessera che c'è scritto qua? Massage. Ah sì, vabbè, questa è la tessera di un bordello, vabbè. Ma non è vero. Normale, sì, come no? Ma non è possibile. Come no? Ma non è vero, Barisoni. Tessera di vari istituti di credito. Vabbè, insomma, il portafoglio del signor Barisoni contiene oltre 200 euro in contanti, vari, come dire, scontrini che saranno sicuramente per farsi rimborsare. Tessere varie. Lo vendiamo a 1000 euro, d'accordo? Ah no, 1000 euro. Grande asta della zanzara, portafoglio di Barisoni in pelle umana. 1000 euro, d'accordo? Cala. Tessera del bordello, all'Italia e cose varie, vabbè. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Meglio, c'ha ragione su questo. Siamo qui, 800-24-00-24. Allora ragazzi, torniamo seri. Ho sentito oggi delle grida terribili da parte degli immigrati che venivano presi dalla polizia e venivano messi dentro le macchine. Ora io dico, possono anche dar fastidio quelle grida, no? Protestavano perché non volevano andare via dagli scogli. Poi ragazzi, decidiamoci, o li manteniamo sugli scogli e nessuno vuole tenerli sugli scogli, oppure li portiamo alla stazione. Cioè non li possiamo tenere sugli scogli. Eppure questi protestavano perché evidentemente sperano di arrivare in Francia subito. Dunque non volevano essere trascinati. Oddio, abbiamo sentito le urla di questi immigrati. Andava organizzata una tendopoli lì, infatti. Andava organizzata. Ma la polizia che cosa deve fare? Non ho capito. Cosa deve fare lì, intanto? Ma perché non si possono portare? In non possiamo nemmeno permetterci di prendere e portarli. Le no, frontiere, non possiamo, le sue maledette frontiere, le sue maledette frontiere. Non possiamo nemmeno prenderli e portarli. Non, sì, non lo possiamo però fare. Sarebbe stato più intelligente. Anche umano. Ti hanno aprire... dato fastidio quelle mani dei poliziotti con i guanti, quelle mani dei poliziotti con i guanti. Oddio, la polizia prende questi e li mette persone così. Ma li hanno messi dentro la macchina. Li hanno messi dentro la macchina, scalciavano, scalciavano, d'accordo? Si dimenavano. Avrebbe avuto più senso organizzare lì una tendopoli. Vabbè, allora tu, il responsabile dell'ordine pubblico, David Parenzo, dice che era meglio organizzare una tendopoli. No, ma anche per loro, per dargli la possibilità di sentiamo un po' di grida, i migranti che urlano. Piano, saliamo di là. Dai, chiudi. Possono dare fastidio certamente, no, queste fastidio, urla, dispiace, no? Mi dispiace, è sì, terribile. Per carità. A me dispiace. Dopodiché non, è che no. Non è che erano degli aguzzini che stavano lì. Semplicemente dispiace, questo qua. Gente che soffre. Ho capito, gente che soffre. A parte per che mesi. Non per mi sembrava lì, particolarmente sofferente. Non voleva essere caricato su una macchina. Non voleva essere caricato in una camionetta. Amico mio, ma vuoi rimanere sugli scogli? Vuoi rimanere sugli scogli? Fare una tendopoli lì. Dai, su. Ma risentiamo queste urla, no? Perché sono significative queste urla. Perché hanno colpito molte persone queste urla. Certo, gente con cuore, ovvio. Chiunque. Piano, saliamo di là. Con la testa. Dai, chiudi. La Santanchè ieri no, tra l'altro molti di questi fermo, non parlando lì, neanche lì. L'italiano andava mandato qualcuno per comunicare con loro nella loro lingua, per spiegare quello che sarebbe accaduto. Cioè questi non parlano neanche l'italiano. Anzi no, ti faccio sentire questo di Sel che dice ci volevano i mediatori culturali. Certo, ma c'ha ragione. Quali mediatori? Qualcuno che conosca la lingua. Ma la polizia che li prende, li porta via. Per spiegargli che succede, perché sì, non sono dei criminali. Ma che cazzo no? Dobbiamo fare oltre a prenderli con la polizia, portarli in una tendopoli alla stazione di Ventimiglia? Perché costava tanto avere un fammi sentire questo di parla la loro lingua. Come si chiama quello con i bei capelli, Furfaro là. Ha ragione. Ma che credibilità può avere un paese che prende una persona e la tratta in questo modo? Hanno fatto stamattina uno sgombero, me l'hanno raccontato, perché ci sono dei nostri parlamentari, senza avvertire nemmeno il sindaco, sì, senza mediatori culturali. Li prendono, sa per cosa? Per spostarli alla stazione. Insieme alla polizia, secondo questo signore, ma ci vogliono i mediatori certo, culturali. Certo, uno che spieghi a queste persone amico quel che succede. Mio, no. Ma certo, normale, ovvio. Comunque sai, con 70 euro si passa il confine, eh? Cioè basta pagare. Li chiamano gli spalloni umani. Ora, Santanchè ieri ha detto che non possiamo ricevere la pattumiera del mondo. Ma le sembra che dobbiamo diventare la pattumiera del mondo? Oh, Ferrara dice che è un'emergenza risolvibilissima. È una cosa risolvibilissima, bisogna solo aspettare un momento, non aggravarla, cercare di controllarla. Ma io avrei una proposta, io tirerei fuori Buzzi da Badu e Carros. E lo manderesti a Ventimiglia. Dal carcere speciale dove sta lì per mafia, perché bisogna per forza dimostrare che a Roma c'è la mafia, che è una follia assoluta. E io prenderei Buzzi e lo farei capo insieme al prefetto Gabrielli di un comitato per assistere sti di accoglienza. Quello faceva e lo faceva anche Benone. È un genio Ferrara. Tiriamo fuori Buzzi dal carcere, peraltro chiede il patteggiamento. Siamo talmente folli in Italia da concedergli il patteggiamento, eh? I magistrati pare che si oppongano. Però vorrebbe 3 anni, una multa da 1 migliaio di euro e via fuori. Ma guarda che succederà, adesso i magistrati si oppongono, ma succederà sicuro. Allora, intanto, i signori della Conferenza Episcopale Italiana, signor Galantino per la Conferenza Episcopale Italiana, dice che siccome abbiamo sfruttato fino adesso gli immigrati e in quei paesi abbiamo fatto schifo, cioè in Africa, adesso questi immigrati vanno risarciti, dunque dobbiamo accoglierli, dobbiamo risarcirli dei disastri che abbiamo fatto in Austria. Questa è la posizione del Vaticano, amico mio. Allora, Non è sbagliato. Alba, come stai? Non è la posizione di un del Vaticano, una volta tanto, è la posizione di cristiani. Sì. Esatto. Che, come diceva Dan Gallo, non sono cristiani moderati, perché non esistono i cristiani moderati. Tu sei cristiano, tu vai in chiesa, per esempio. Ma io sono ateo. Cruciale, ah, si vede, meno male. Totalmente perché invece ateo. Altri come te, che dicono le stesse cazzate che dici tu, vanno in chiesa, sì, e si ritengono cristiani. Allora, sì, cristiano, Cristo, bravo, non era moderato. Cristo si ringrazia per aver detto quello che pensava. Dunque, ha ragione questo tizio della conferenza episcopale che, vabbè, siccome mi sembra, lascia per la conferenza episcopale con cui ti piace condire questo argomento, come se lo dice lui, prato, mica l'ho detto tutto io. Il Vaticano, grazie a Dio, non è simile a quello che abbiamo visto per certi casi fino adesso. Non è lo Ior. Dunque, no, allora, diciamo Alba Parietti, sentiamo quello che ha detto di accoglienza. Allora, se siamo cristiani, allora non giriamo intorno alle cose. O siamo un popolo di gente che si fa i cazzi propri, e allora in quel caso lì va benissimo, non accogliamo nessuno, trattiamo questi qua come se fossero della merda, la chiamiamo, esatto, pattumiera, forse guardandoci allo specchio, perché distrattamente forse questa frase è uscita a qualcuno che si è guardato dalla allo Santa specchio. Dalla Santa Anche. Allora, e dopodiché mi devi spiegare una cosa: se uno è cristiano e ha valori cristiani, non cattolici, attenzione, sì, cristiano, non può essere un moderato. Dunque vanno accolti tutti. Io mi ritengo una cristiana non moderata, e come cristiana non moderata apro la porta a chi ne ha bisogno. Anche quella di casa tua, allora? Ah, beh, evidente, ma guarda, senti, in ogni caso adesso non fare queste battute veramente di faccia. Accogliamo tutti. Sembri la Sant'Anchè, accogliamo tutti. Ultimamente tu ragioni come la Sant'Anchè, te lo giuro, perché comunque fai parte di quelle persone che, pur non dicendo spariamo sui barconi oppure a morte gli zingari, in realtà fai finta, cioè non hai una posizione precisa, perché ne hai il coraggio di dire mandiamoli a crepare, fai nazista fino in fondo, ma che oppure c'entra? Neanche, però te le, certo, ti fai semplicemente i fatti tuoi, come fanno la maggior parte delle persone. Ma perché persone. Tu che fai? Invece, se no, io cosa faccio? Io personalmente ritengo che queste persone, che peraltro stanno solamente cercando, tra l'altro, un moderatore culturale, la solita frase, come adesso hai detto, al Vaticano, eccetera, eccetera. Ma carità, allora, comunque, se ci volesse qualcuno che spiegava a questi poveri disgraziati, esatto, tu sai come vivono in Eritrea questi che vengono? Lo sai che se in Eritrea tu non vai a fare il militare, la cosa migliore che ti può, essere, ragazzi, che ti può succedere è che vieni torturato a vita? Guarda, uno, che tu potresti utilizzare, ma tu devi cominciare a studiare la storia di questa gente qua, che... e capire come vive. Sì. Allora, loro cercano solo di sopravvivere, dopodiché, certo, che qua non possiamo fare fronte a tutte le emergenze, quelle mani della polizia, ma che queste persone, sì, comunque meritino dignità e meritino, vabbè, rispetto, sono frasi fatte, e che chiamarli pattumiera significa essere delle pattumiere, perché noi quando diciamo queste frasi ci dobbiamo vergognare, perché se siamo degli esseri umani, visto che io qua poi ha detto che non si riferiva a quello, vegani, una battuta sui vegani mi hanno rotto i coglioni in 5.000, allora quando si parla di esseri umani che vengono trattati come delle bestie, che scappano dalla guerra, dalla fame, dalla disperazione, dalle torture, li pigliamo pure per il culo? Non mi sta bene, Cruciani. Ma chi è che li piglia per il culo? Scusa. Tu li stai pigliando per il culo. Io li piglio per il culo. Non parli di questi qua come se fosse della gente che viene qua a divertirsi, capito, che fosse qua in vacanza. Ma chi ha barca. Detto questo? Ho detto semplicemente che quelle immagini. No, scusa, fermati un attimo. Fermati, che sei un fiume in piena. Adesso ti sei scaldato. No, ma lei ha ragione. Chiunque può fare qualcosa. Quali atteggiamenti? Quali? Stiamo diventando di nuovo fascisti. Bisogna che ce ne. Ma chi è diventato conto? Fascista? Chi è un tu paese stai fascista? Diventando un fascista, ma io sono tu diventato fascista, io voglio fascista. Io... Ma che c'entra il fascismo? Ai lager ci vuole poco. Ma da che è lager, siamo diventa... tutti, ci vuole poco. Questo l'ha detto Santoro l'altro giorno. Aspetta un attimo che c'è il traffico, poi torniamo. Traffico. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. La Zanzara. Allora, voglio subito dire a Alba Parietti che tra un massaggio e l'altro potrebbe subito accogliere qualche profugo di Ventimiglia. Perché c'è? No? Sai, cioè... che dici proprio delle banalità, ti giuro, ma veramente ti stai santichentizzando. Allora, primo, io senti, se io faccio, diciamo, tra virgolette, delle opere chiamiamole quali sarebbero queste opere di bene, civili, quali sarebbero? Compreso, per esempio, fare dei versamenti mensilmente per tutti quelli che o portare delle cose ai campi. E non ho neanche voglia di startelo a raccontare. Che ne so, raccontami. Dopodiché è chiaro che ognuno fa quello che può. Io, dico... io personalmente ho sempre assunto, ho fatto lavorare rumeni, giapponesi, extracomunitari, eritrei, filippini, pagandoli e mettendoli anche in regola quanto era possibile. Il PIL italiano, ti vorrei ricordare, che vive grazie agli extracomunitari. Dunque accogliamo tutti quelli che hanno bisogno, tu dici. Tutti quelli che hanno bisogno e chiedono fame, lavoro, eccetera, accogliamoli. Ma questi se ne vogliono andare, giusto, accogliamo tutti. Così subito. Non finiamo più, accogliamo tutti quelli che vogliono. Io avrei una soluzione. Qual è la soluzione? La soluzione finale, te la ricordi? Quella di un amico tuo che si chiamava Hitler. Ma veramente è più amico tuo che mio. Gas, mettiamoci dentro. Ma che c'entra? Ma chi dice questo? Ma... E non ricordiamoci che magari questa situazione non deriva da. Ma tu dici che i leghisti. Lascia perdere me. Lascia perdere me. O dagli Salvini. Salvini, ti sei. Finire, perché se no non mi devi neanche telefonare se puoi parlare. Oh, Alba, un attimo, siccome attribuisci questa posizione a me, stai parlando di Hitler. No, aspetta, a te sembra che la Lega abbia posizioni vicine a Hitler? O no? La Lega ha posizioni vicine a Hitler o no? Ascoltare? Dimmi. La situazione in cui ci troviamo in Italia è così, ed siamo nella merda più totale, non certo dipende. Per gli extracomunitari, ma semmai per come sono sempre state gestite malamente le cose dai nostri politici. Questo non c'è dubbio. Quindi io prima di mettere al bando gli extracomunitari. Ma che c'entra al bando? Ma ci vuole. Tutti i politici che hanno rubato in Italia, vabbè, dal primo all'ultimo, sono... anche tutti quelli che hanno reso ridicolo il nostro paese, vabbè, ma d'accordo, vai, si levino dalle palle, per esempio, e diano al posto delle persone degne. Ok, ma d'accordo, allora, va bene, quello... queste persone andranno in televisione. Sì, ma che a c'entra parlare, adesso gli extra la bocca? Aspetta. Allora, capito, io voglio capire una cosa adesso, fammi fare una domanda però. Tu hai ragione quando dici i politici si sciacquano la bocca sugli extracomunitari e hanno provocato disastri in Italia. E quello, su quello siamo tutti d'accordo. Però distinguiamo i problemi. Allora, secondo te la Lega cosa sta facendo? Una propaganda di stile nazista? Questa è la domanda che ti faccio diretta. Certo, sta facendo quello che stanno facendo in tutta Europa tutti quelli che vogliono voti. Perché non è compresi tutti quelli che... Allora, si è capito. Allora, partiamo da un presupposto. No, ma tu hai fatto il paragone di Hitler. Ti sembra propaganda italiana? Ti sembra... no, ma la diretta ti sembra propaganda italiana? Fai le domande per dare tu la risposta. Ma no, ma ti, non mi chiedi che dall'altra parte ci sia un essere pensante. Ma certo che penso che sia un essere pensante. No, dai, Alba, non allora, faccio... ascoltami bene. Su. La propaganda politica che sta facendo Salvini Ti sembra vicina a Hitler, domanda. E di nuovo, cazzo, ma mi fa rifare la domanda e riparla lui. Quando dice allora, cazzo, si basa su che cosa? Allora, guarda quanta gente c'è per strada, senza casa, senza lavoro, senza... Queste persone, ovviamente, magari molto spesso, anche persone che oltre a essere in quella situazione, non hanno neanche avuto l'istruzione e le attrezzature per capire perché questa situazione è così. Se la prendono coi più poveri di loro, come sempre è successo. Allora, quello che io voglio dire, che trovo letteralmente schifoso, è che questi voti che arriveranno poi dal sottoproletariato e dalla gente, arrivano che la gente normale, non ha possibilità di capire che quelli chi che vota la Lega sono deficienti, sono deficienti e non i poveri disgraziati, sottoproletariato, la solita lotta pazzesca, tra poveri, dai, dove i voti andranno a quelli che hanno capito e hanno intuito da che parte devono andare. Capito. Allora, se Salvini governerà l'Italia, tu che fai? No, questo da capire, se Salvini governerà l'Italia, tu che fai? Io se Salvini governa l'Italia, siccome sono italiana, resto qua perché ho i parenti, ho gli amici, ho i conoscenti. Ma ti fa paura o no? Ti fa paura o no? Non vado in Spagna, dove andrei molto volentieri, ti dico la verità, definitivamente, perché lì... Ma vuoi andare in Spagna? Sì, è un paese molto più civile di noi. Hanno da sempre approvato i matrimoni gay, hanno più rispetto di tutti. Ma in Spagna lo sai come li accolgono gli immigrati? Ogni tanto li accolgono sparando con gli immigrati al confine. Guarda, io ti voglio dire una cosa. Dico solo questo. Per esempio, tanto per farti un nome. Ibiza, dove io vivo, peraltro, e dove c'ho una casa, vivono i gitani perfettamente in sintonia con tutta la popolazione, non vengono chiamati zingari, ma gitani, hanno la loro cultura e l'hanno portata avanti civilmente. Modello Ibiza. No, modello Spagna, perché io Spagna non fanno entrare gli immigrati, sparano ogni tanto, quando voglio sparano. Di luoghi comuni, ma io sei un luogo io voglio l'Australia, no way, non si entra, si entra. Ma non si entra dove? Si prendono le navi e si riportano indietro. Ma perché non vai tu? Cazzo. Insieme con i forconi, le ruspe, tutto. Ma io non voglio, a me non me ne frega niente, io non devo andare niente, io faccio un altro mestiere, ma che vuol dire? Ma fai un altro mestiere, purtroppo tu sei un divulgatore, quindi ho le mie idee. Io penso che ha ragione Alba. Io oggi bastava vedere cosa succedeva vicino a Roma, a via Tiburtina. Ma qual è il fastidio? Dà fastidio perché è inumano, perché sono persone, non sono ladri. Scusami. Andava mandato lì un mediatore culturale che magari parlasse la loro lingua, spiegasse loro cosa stava succedendo. Cioè, hai visto quelle immagini tu o no? Le hai viste quelle immagini o no? Quelle della polizia di oggi. Le hai viste o no? Sì, le ho viste. E ti hanno fatto schifo quelle immagini? Allora, sicuro, posso dirti una cosa? Io sono dispiaciuta quando vedo queste cose, perché io mi rendo hanno conto presi, che li hanno portati via dagli scogli. Li hanno portati via dagli scogli. Hai una malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe fare. Sì, ma devo anche condurre una trasmissione, adesso c'è la pubblicità, te li chiamo dopo. Tu conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico come quello di prima che ha dato la cosa. Dirigo il traffico, guarda, non me lo puoi dire a me che dirigo il traffico, guarda, perché se dirigessi il traffico lasciamo perdere, va. Ci sentiamo dopo, dai, 800 24 00 24, poi mettiamo in conto, poi mettiamo tutto in conto qua. Sai che dici proprio delle banalità, ti giuro, ma veramente ti stai santicchentizzando. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento La Zanzara. Malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe dare una risposta. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Tu sei pieno di luoghi comuni, Cruciani. Sei un luogo comune fatto persona, eh? Oh, ma rilassiamoci un attimo prima di riaffrontare la signora Parietti, che ovviamente si lascia parlare, si lascia parlare. Ma su che cosa? Io non ho capito qual è la soluzione. Cioè, non ho capito sull'umanità. Ma a parte le cazzate che dite su, ma chi è che non li vuole aiutare? Ma che cazzo dici? Perché si diffondono stupidaggini. Ma cosa cazzo dici? Dite delle cose ridicole. Diciamo nessuna cosa ridicola. Ma qual è, a parte le parole, l'umanità, l'accoglienza? Siamo tutti d'accordo. Ma la soluzione qual è? Oggi a Roma, la soluzione è quali sono? Oggi ho visto, al di là delle Roma, vostre belle parole, le sì, soluzioni, no, quali non sono? Non sono belle parole. Allora, intanto ci sono persone che hanno fatto gesti concreti, perché ho visto centinaia di romani. Chi ha detto che non va bene? No, chi ha detto no, che non va bene? Se chiamano sempre quei quattro stronzi adesso razzisti. Se la piglia con gli ascoltatori. Sì, avanti. Quei adesso quattro stronzi, perché la grande maggior parte della gente però non sono quei quattro stronzi somari che chiamano. Ma stai fermo, non insultare chi chiama, imbecille. Sì, no, ma qualcuno, se uno è un somaro razzista, glielo dico. No, però aspetta. Somaro razzista è anche stronzo. Perché invece oggi a Roma, io ho visto alla Tendopoli, che ha la Croce Rossa organizzata, sì, dietro, sì, la Tiburtina, sì, che cosa ho è visto decine di macchine fermate. Stupendo. E allora? Con di donne, allora? Con bambini, e allora? Che portavano, e allora? Oggetti, e allora? Da mangiare. E allora? Allora? Quindi la dunque, non siamo un popolo di razzisti. L'Italia non siamo un popolo sopra, di razzisti. No, ci sono alcuni stronzi. Benissimo, razzisti, ma non siamo un popolo di razzisti, ci allora. Sono. Ma non ho capito poi che cosa. C'è una grande fetta di popolazione. Beh, che invece. Dopo aver detto questa banalità sesquipedale, perché questi ogni giorno c'è un flusso di gente. Dopo aver che detto arriva, questa banalità incredibile, porta vestiti, allora, aiuti, e capisce, ottimo, che questi qua non sono dei criminali. Bene. E quindi anche la parola, dunque, mediatore culturale, cioè gente che sta le lingue, culturali, va lì e spiega a queste, cioè, persone impaurite che cosa gli succederà. Sì, ma stai tranquillo adesso. È giusto da io farlo, ho semplicemente non detto una barbarie, io ho semplicemente capito? Detto un'altra cosa, caro punto, mio. Ho detto su, che no, quelli che dicono che lo sgombero. Ma stai tutto, zitto un attimo. Quello che abbiamo visto oggi a Ventimiglia è sbagliato. Ma vuoi stare zitto un attimo? No, che è lo sgombero. Devi stare sbagliato. Zitto un secondo. Che è lo sgombero sbagliato da parte della polizia. Ma che è sbagliato cosa? Dovevano, ma che ti vuoi mettere al posto modo della polizia? Hanno preso, no, quelli, li hanno messi dentro. Ma che sans frontiera? Ma esempio, quale Medicine sans frontiera? Ma, non, sì, sì, ma, sì, ma vai a fare il capo della polizia. La maggior parte di quelli che ascoltano sono da, lo sanno, poi non chiamano Medicine sans frontiere. Devono chiamare Medicine sans frontiere. Quando sono stato a Lampedusa, ma io vado a cagare quanto vuoi, ma sono stato a Lampedusa e ho visto, sì, a fianco alla polizia, sì, sì, quelli di Medicine Sans Frontiere, sì, San alcuni dei, sì, quali neolaureati in lingue, che hanno trovato un lavoro grazie a questa cosa qui, sì, fanno i traduttori, sì, sì, col cazzo, attimo, vabbè, va, e spiegano ai migranti, oh, a quei quattro, ragazzi, stronzi, forza, di razzisti che chiamano, tanto, cosa questo gli succederà? Dire solo questo. No, perché quei quattro stronzi, è facile dire sentire questo, quattro stronzi, mi che chiamano. Mi togliete un attimo, per favore. Alba! Alba! Allora, sì. No, no, aspetta un attimo. Allora, ti voglio dire una cosa. Al di là di quello che hai detto prima, io però devo riconoscere a te una cosa. Adesso la prendo anche un po' per scherzo. Ma devo riconoscere a te una cosa, che hai spirito combattivo. Cioè, se la sinistra, questo lo dico sul serio, senza presa in giro, se la sinistra avesse messo anche nel corso di queste elezioni, non dei renzini e delle renzine, ma questo lo dico anche sorridendo, ma è un discorso serio, ma Alba Parietti, secondo me qualche risultato in più avrebbe ottenuto. Posso dirti? O no? O sbaglio? Guarda, ti ringrazio molto, immagino che questo sia un complimento. Ma no, assolutamente io con la politica non ho voglia di... Perché no? Ti spiego, perché... Guarda che la soluzione potrebbe essere... fare quello che mi pare. Nel senso che io mi considero un'anarchica, oramai. Non me ne frega niente se ha perso voti Renzi piuttosto che chi altro, eccetera, eccetera. Perché in questo momento io non sono più affascinata da nessun... partito politico, non mi sento di far parte di nessun gruppo. Ma sei contenta politico, della sconfitta di Renzi? Per continuare a dire a testa alta, vabbè, d'accordo, quello che penso. Ma sei contenta? Motivo perché non presi all'epoca i soldi, sì, di Berlusconi, e per cui questo motivo per cui non mi faccio affascinare neanche da Renzi, perché io voglio essere libera di poter dire in ogni minuto che cosa mi piace, che cosa non mi piace. Ma questo va benissimo. Quindi nel momento in cui io faccia parte di qualche lobby politica, la mia parola non è più credibile. Sì, però è vero che ripeto, a vedere Renzini e Renzine in televisione, tu fai un figurone. Cioè, ma il problema è che Alba, io non ministro, sono renziana, Alba ministro, non subito. Non so neanche più che cosa sono. Sono una libera cittadina che pensa. Certo. E pensa di poter dire quello che gli pare. Tra parentesi, posso dire una cosa? Voglio dare appuntamento al 18, cioè dopodomani, a Firenze, a tutti gli amici che ci vorranno raggiungere in piazza per l'ultima puntata di servizio pubblico di Rosso di Sera. In piazza Nerone a Firenze, venite tutti. Ottimo. Quelli che, come me, pensate che ci sia libertà ancora di esprimere il proprio pensiero. Ma ce n'è un sacco di libertà. Ce n'è un sacco di libertà, per fortuna. Senti sì, un attimo, però oltre... Allora, teniamocela stretta, perché per questo paese c'è gente che ha lasciato la pelle a 30 anni, perché la libertà di questo paese... Io non ho capito perché dai del nazista alle persone che semplicemente la pensano diversamente da te. Perché sei un po' nazista. Ma non dire stronzate, adesso mi fai incazzare. Ti ho lasciato parlare, prima mi fai incazzare, perché quando uno dà del nazista, una persona ci deve pensare 10 volte, non dire puttanate. Non dire puttanate. Ma che c'entra? Questa è una domanda. Siamo pattumiera dell'umanità. Ma quello che l'ho detto io? Che l'ho detto io quello? E allora non mi dare del nazista a così a UFO, dai, su. Se ti calmi un secondo. No, ma devi calmarti tu, ma hai dato del nazista, scusa, abbi pazienza. Adesso prima sono stato calmo, poi calma. Posso esprimere un mio pensiero con no, scusa, oltre alle belle parole che abbiamo sentito prima, l'accoglienza, eccetera. Sono pietre e noi in questo momento abbiamo possibilità di esprimere il nostro giudizio, il nostro parere da liberi. Vabbè, ma questo lo sappiamo, dai. Fai attenzione. Ma che faresti con questi che arrivano? Voglio capire che faresti. Che faresti? Le categorie discriminate. Oddio mio, ragazzi, però io non ne posso. Poi ci saremo noi, sarà la nostra libertà che non ci sarà. Vabbè, più, ho capito. Perché è così che si comincia. Va bene, d'accordo. Allora, non negare il diritto alla vita, l'esistenza. Ma chi, ma chi vuole ammazzare questi? La soluzione qual è quando arrivano? Qual è che non la sai nemmeno tu? Qual è? Mano, posso dirti, appunto, scusami, non ce l'hai. Vai, allora, ti ascolta, riempi di belle parole e no, basta. Dai, da mangiare. Ad avere un minimo di empatia e di cercare per un secondo. Ma che c'entra l'empatia? Mica sto qua ad avere empatia io. Ma ascolta, però non puoi parlare continuamente. Non ho capito. Ah, guarda, mi ha chiamato Sgarbi per dire che faccio male a rispondere perché sei un decelebrato, no? Ma che cazzo dici? No, però mi ha chiamato sul serio per dirlo, perché non fai parlare. Allora, ok, ma vuoi fare il comizio sull'accoglienza? Vuoi fare il comizio sull'accoglienza? Questa è l'emergenza, non c'è dubbio. Ascolta, l'accoglienza, allora, visto che questo è un paese cattolico, no? E la prima cosa che dovrebbe fare un cattolico, invece di farsi il segno della croce e raggirarsi da solo, credendo che andare in chiesa sia la soluzione a tutti i suoi problemi, far finta di essere una persona per bene. Sei una persona per bene quando ti interessa il prossimo. Ma chi dice quando che dobbiamo che un ho capito, vabbè, ma ho capito, abbiamo capito, guerra, ma siamo un paese da questo punto di vista perfetto, accogliamo tutti, diamo da mangiare, siamo perfetti. No, non è così. Però neanche vediamoli come dei nemici, perché noi siamo stati emigranti. Scusa, ma se uno vuole bloccare i barconi, se uno modo. Vuole no, non è, a parte che non è vero, è un paragone assurdo. È un paragone vergognoso per come guarda, io ho parlato con tanta gente che è stata emigrata ed è andata in America negli anni. Scusami Alba, io vorrei capire una cosa, se uno dice che vuole bloccare i barconi prima, se uno dice che no, ci vorrebbe una politica come quella dell'Australia, scusa, che non li fa arrivare in mille modi, non lo so, bombardare, l'ha detto Renzi fino a 2 mesi fa, bombardare i barconi prima che partano, non con la gente dentro, con i barconi vuoti, si può fare, prenderli e portarli nei paesi vicini invece di portarli in Italia. Se uno dice questo come idea, è un razzista, è un nazista, non credo. Tu li vuoi portare a paesi più poveri di noi ancora? Allora dove li vuoi portare? Accogliamo tutti, va, avete ragione voi, accogliamo guardati, tutti, accogliamo tutti. Google, avete ragione te, Parezza, accogliamo tutti. Non ci vogliono stare qua oggi, e tu dimmi se è un essere umano, poi senti, ci scandalizziamo. I profughi non vogliono stare qua, sono una minoranza i profughi rispetto come delle bestie, poverini. Però ti posso fare due domande prima di ti posso fare due domande prima di chiudere. Un trattamento diverso per le persone in quei paesi, e secondo te loro non hanno diritto di cercare di sperare. Vabbè, allora accogliamo tutti quelli che sono che fuggono dalle guerre. Accogliamo tutti quelli che fuggono dalle guerre, tutti. Io ti sto facendo tutti insieme. Domanda. Io questa domanda ma che fanno diritto di tutti hanno diritto di vivere? Certo che hanno tutti diritto di vivere. Che banalità è che hanno diritto di vivere? Certo che hanno diritto di vivere. Ma mi dici una cosa banale? Hanno diritto di vivere, certo. Hanno diritto di vivere. Non mi sembra tanto banale dal momento che c'è gente che dice appunto che bisogna bombardarli prima che partano. Ma questi non stanno andando in gita, ti ripeto. Ma chi dice che stanno andando in gita? Ma se uno Stato è un minimo di ha delle regole, dunque quelli che hanno bisogno per cibo, per mangiare, non li possiamo accogliere. Non li possiamo accogliere. Questo accanimento però, Cruciani. Ma chi è l'accanimento? Qual è l'accanimento? Non far parlare gli ospiti a cui telefoni, perché sennò ma stai parlando, Alba? Ma che dici? Ascoltami bene. Se io vorrei una cosa, siamo dei giustizialisti, siamo delle persone che guardano la logica e la coerenza, il nostro paese che continua a sbraitare a destra e a sinistra ogni volta che una giunta viene fuori che ha rubato, cosa che hanno ma fatto che sono stai mischiando due cose insieme in tutta la politica nei secoli dei secoli dell'Italia, perché questo è un paese di tra virgolette noi siamo mafiosi, hai no? Vabbè, adesso però ho capito, ma non puoi dire adesso noi siamo mafiosi, la giunta che hanno rubato, perché sennò altrimenti non si finisce più. Ascoltami un secondo. Senti Lisa da Pistoia. Siamo mafiosi, ce lo dicono sì, a lei. Senti Lisa da Pistoia. Ce lo dicono ancora oggi. Allora, ascoltami. Vabbè, d'accordo, vabbè, allora. Allora, ascolta, noi nei secoli dei secoli, tutti i politici che hanno derubato e si sono fatti i cavoli loro. Non senti il comizio stasera, sentiamo il comizio. Riducendo questo paese in queste condizioni dove la gente andiamo col comizio. Non ha lavoro, momento, non e non lavoro, certo per colpa degli immigrati o degli zingari o dei neri o degli omosessuali. Senti, che ne pensi? Che hai detto l'altro giorno alla Santanchè? Che deve stare zitta là in trasmissione? Che gli hai detto? Beh, quello che vorrei dire a te in questo momento. Cioè? No, a lei gli ho detto che cacchio ridi perché stava ridendo. Una roba che è proprio fuori luogo. Mi fai finire di parlare? Beh, ma stai parlando la che io ho dato dei mafiosi a tutti gli italiani e delle giunte. Allora, ma questo paese, i politici che hanno rubato, ma li ha costretti a restituire i soldi. Abbiamo riavuto indietro tutti i furti che sono stati fatti negli scorsi di 50 anni erotti in cui non è stato questo stasera. Paese è stato ma che c'entra con gli immigrati? Ma che c'entra con gli immigrati? Ferma un attimo solo che c'ho la borsa. Vai troppo lunga, ma dovresti conoscere i tempi della radio, no? Brucida. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Prima di riprendere questa assurda puntata su Parole al Vento da parte della signora Parietti e da parte di David Parenzo, che parla di italiani che danno solidarietà, bellissimo, meraviglioso, e di ascoltatori nazisti o pazzi, cosa che sappiamo che c'è qualcuno che interviene e che dice le sue cose, ma lui li tratta male come se fossero tutti rincoglioniti. Alba Parietti invece dice in sostanza che quelli che votano per i partiti che fanno propaganda sull'immigrazione sono dei poveri trogloditi del sottoproletariato, eccetera eccetera. E dice anche poi il ministro Parietti, di fronte alla domanda ma lei che cosa farebbe, poi io non ho soluzioni eccetera, dopo aver sentito tutte queste cose vi voglio invece far sentire un Renzi di qualche anno fa sulle primarie, perché Renzi ha detto, oltre ad aver dato un avvertimento mafioso a Marino, adesso torno con Alba Parietti, un avvertimento mafioso a Marino, che è quello che trovo assurdo per un Presidente del Consiglio, cioè un Presidente del Consiglio che si permette di dire stai attento, no, non devi stare tranquillo al Sindaco di Roma. Io non ho grande simpatia per il Sindaco di Roma, ma non esiste che il Presidente del Consiglio, anche Parenzo sarà d'accordo su questo, no? Cioè che il Presidente del Consiglio dice al primo cittadino di Roma che non deve stare tranquillo, no? Beh, lì parla da, è assurdo, ma lì parla da segretario del PD, evidentemente. Ma, ma non vuol dire niente, cioè, è il Presidente del Consiglio. Ma non può. In questa confusione, lui essendo anche segretario. Ci sta che dà un avvertimento a Marino del genere. Non sono d'accordo. Premesso che non sono d'accordo, e che è una stupidaggine la roba che ha detto sulle primarie, che adesso siccome non va più bene, va resiste. Esatto. Stupidaggine assoluta, visto che lui ha vinto per le primarie. Senti che diceva nel 2009. Però da segretario del partito ormai fa tutto lui. Ci sta che sfiduci pure anche sto sindaco. Un Presidente del Consiglio dice al sindaco prefetto. Ma non esiste, non si fa detto così. Che è nel doppio ruolo, lui è segretario del PD. Ma la gente anche, questi no? formalismi non li capisce, il doppio ruolo. È il presidente del consiglio che dice, semplice, che dice al sindaco di Roma. Tolti i quattro razzisti stronzi. Il presidente gente, del consiglio dice al sindaco di Roma. Che è segretario del PD anche. Fatemi segretario del Renzi nel 2009, dai. Renzi 2009 primarie. Segretario del PD. È bello che il Partito Democratico faccia le primarie, uno strumento di coinvolgimento dei cittadini, uno strumento di partecipazione, un po' arzigogolate le regole come sempre per le primarie, noi ne sappiamo qualcosa, però meglio le regole arzigogolate che una mancanza di dibattito interno. Questo era il 2009, poi aveva saltato le primarie altre volte, 800 24 00 24, Lisa da Pistoia, vai Lisa. Lisa? Lisa? Lisa da Pistoia non c'è, Giacomo da Perugia. Giacomo. Giacomo da Perugia. Dario da Roma. Allora, ciao. Innanzitutto la Pariesi ha fatto una miscellanea di cose, parlando una macedonia di cose, andando dai migranti alla gente che ruba, ai politici, che non c'entra assolutamente nulla. Io lavoro in Spagna, in una compagnia aerea spagnola. Signori, in Spagna i migranti clandestini, chiamiamoli come più piace a Parenzo o chiunque, non arrivano perché profughi. Si spara. L'hanno fatto all'inizio e non arrivano più. Loro hanno avuto un millesimo dei morti che abbiamo avuto noi. Però non lo dice nessuno, perché in Spagna non arriva un cazzo di nessuno. E io lavoro a Malaga, non so se sapete dove è Malaga, come ma no, di fronte certo. all'Africa. Sì, ma tanto di fronte alla realtà. Quindi, delle cose. Queste persone si parla di solidarietà. Per riempirsi la bocca e non sanno un cazzo. Perché quando gli dici, come dici te, dammi delle più vicina a Malaga o Lampedusa dall'Africa, visto che lei sa tutto. Non so dal se punto di vista. Malaga non è Lampedusa. Comunque. Appunto. Sto dicendo esattamente questo. Rispetto alle rotte dei migranti, non entro in quello che scrive l'IMES, chi se ne frega. Le rotte, parliamo di una roba concreta, no? Cioè la distanza che c'è da dove partono sì, a dove arrivano. Malaga è più vicina rispetto a Lampedusa o è Lampedusa più vicina? Sanno che non entrano, questo è il punto. Dunque non arrivano nemmeno dal Marocco o dall'Africa. Guarda, anche se sanno che non entrano. È vicinissimo. Calcola che con l'aereo si fa la tratta in 21 minuti, quindi è molto sì, più sì, certo. Ma il punto non è quello. Andiamo al punto, a provare a dare non una soluzione, perché per carità di Dio non la voglio dare io, però vediamo le cose come stanno. Loro hanno avuto un millesimo dei morti che abbiamo solamente perché noi sia con la nostra testa organizziamo le tendopoli, facciamo queste stronzate. Loro non ce l'hanno. Mi dite perché loro non ce l'hanno? Non ci sono. E manco Ibiza di cui ci parlava prima. Allora, no, Ibiza proprio come modello di integrazione Ibiza, straordinario. No, perché la Parietta ha detto una cosa interessante, che non c'entrava un cazzo. Allora, Ibiza è un posto talmente piccolo che più o meno tutti conosciamo, che è ovvio che se due ma se arrivassero 500 casino, se arrivassero 500 ma se arrivassero 500 immigrati a Ibiza, se mai dovessero arrivare i 500 immigrati a Ibiza, a fucilate li prendono pur di rovinare un posto turistico, a fucilate si mettono a fare i coglioni, è ovvio. Su, diciamo, io non sono, attenzione, io non voglio dire che tutti quelli che vengono da quei posti rubano o sono ladri o ma nessuno dice questo, però nessuno. La parola clandestina, no? Ed è brutto dirla, ma esiste. Se tu arrivi e sei senza documenti e vieni da un cazzo di barco a nuoto, tu sei un clandestino. Parenzo, mi dispiace, tu sei super intelligente secondo me, però secondo me ti fissi su certe cose perché no, io non sono fisso è bello niente. Dirle così. A me sono stato piace, a Lampedusa, sono vabbè, stato oggi Giacomo un da Perugia, qui vai. A Roma. Giacomo da Perugia, vai. Quindi. Buonasera, io vorrei farvi buonasera. Dimmi. Io vorrei farvi una domanda, sì. Ma secondo voi è normale che quando si parla di temi importanti come appunto l'immigrazione non si ascoltino gli esperti di diritto internazionale, di diritto europea, ma un'attrice, con tutto rispetto, io non ho nulla contro da questo punto di vista qua la difendo, io non sono d'accordo con quello che lei dice, ma la difendo, che cazzo c'entra, mica stiamo qua al convegno internazionale sui profughi, ma non pensa mio. Che sarebbe più utile anche per Ma a me non me ne frega niente di essere utile, io faccio la trasmissione alla radio, non devo risolvere nulla, capito? Alba? Sì? No, ma sto sentendo solo delle cazzate. Allora, quest'ultimo, allora innanzitutto, signore, la ringrazio per l'attrice, io attrice non sono, sono una cittadina, pago le tasse, ho fatto delle battaglie politiche e sociali tutta la vita, vabbè, del quale ho pagato il prezzo più alto possibile. Ma t'ho difeso io, non ti preoccupare, t'ho difeso io. Oltre che la mia vita, non ho protettori, non ho padrini. In questo caso t'ho difeso io. Sono assolutamente informata, sì. E mi sono informata da quando ero bambina, perché grazie a Dio avevo un padre che mi dava senso. Ma infatti civico. È un'obiezione senza non senso. Non ho mai voluto guadagnare dalla politica, perché per me la politica è qualcosa dove quando ti infili ti... Vabbè, però adesso non mi parti col pipone, l'abbiamo capito. Io dico al caro signore che mi definisce un'attrice, vabbè, voglio dire, e lui si permette di dare un giudizio morale su di me e decide chi può parlare e chi non può parlare. Ma t'ho già difeso io. Già di per sé, solamente questo commento lo qualifica. Quello prima non ne parliamo. Perché? Ha delirato una serie di informazioni. Un idiota, ma un idiota patentato. Ma un idiota, scusa, Tripoli, Lampedusa. Sulla Spagna, no, perché la Spagna è un paese dove c'è una rara civiltà. Ma praticamente dice no, ma insomma, ma mica un paese incivile, chi ha detto che è un paese incivile? Certo che non ho le soluzioni, se no sarei all'ONU e sarei a occuparmi di questo problema, anzi sarei il mago di come dire, Nostradamus fatto persona. Vabbè, calmiamoci un attimo, calmiamo. Ma quello ha detto, perché sbarcano a Lampedusa e non a Malaga? Io la distanza Tripoli-Malaga, sa quant'è o no? Di fare e di capire che di queste persone io non posso parlare col disprezzo e lo schifo. Chi parla con disprezzo? Quel signore parlare prima. Salvini parla. Io vorrei che lui... Alba, calmati un attimo. Salvini parla con disprezzo, secondo te? Come? Salvini parla con disprezzo di queste persone? Ammazza. Sicuro. Sì. Ma ammazza, ma è evidente, ma questo fa per fare sempre leva sulle persone che non hanno niente, che è la cosa più facile del mondo. Ma è una propaganda tipo fascista. Ripeto, prendere delle persone disperate, come sono disperati gli italiani, che non hanno più il lavoro, non hanno dove andare, perdono la casa. Ma secondo te è ovvio che scatenare le guerre tra poveri è la cosa più facile del mondo, la cosa più facile del mondo, quando in realtà questo, tutto questo non fa altro che camuffare la loro incapacità. Senti, Parenzo, secondo te in televisione tira più la Parenzo la Santanchè come audience, cioè come ospite oggi? Scontro Santanchè Parietti. Ah, lo scontro, ma tra che le due insieme e sono come dire, come in Guerre Stellari, no? Come c'è il buono e il cattivo, è così da sempre, no? Ma cioè, insieme tirano. Posso dirvi un'altra cosa? Scusate, adesso state veramente banalizzando. Vabbè, un po' di cazzeggio, un po' di cazzeggio. Ben in casa, dice Parietti, ad esempio. Non la conosce, ben in casa, ma scritto dove la gente va solo ed esclusivamente per divertirsi. È un posto dove la gente vive normalmente, come vive a Roma. Senti, ma hai detto che il modello di integrazione è Ibiza, dai, insomma, una cosa che fa ridere, dai. Non ti sto parlando di questo, ti sto parlando della mia esperienza. Io non posso parlare di esperienze. Ma io la conosco benissimo. I gitani, cioè quelli che qua vengono definiti zingari, lì sono trattati come... Ma che vuol dire? Non ruberanno, non ruberanno, non ruberanno, amica mia. Cosa? Magari non rubano là. Guarda, se ti dico chi è famoso per venire a rubare a Ibiza, ma no, ma infatti magari gli zingari, no? Purtroppo siamo noi quelli che hanno... Gli italiani rubano Ibiza. Salva Parietti, i ladri di Ibiza sono gli italiani. Iniziamo a capire, ottimo, che tutto il mondo non è paese, che queste persone, comunque a me tutti questi discorsi francamente non mi interessano. Io non sono in grado di risolvere il problema dell'immigrazione, perché è chiaro che non sono capace io come nessuno al mondo in questo, ottimo, momento. Quindi il signore che ha parlato ma prima, se anche dopo, il sindaco di Milano Pisapia, ma che montagna di stronzate, imbecilli. Io l'unica cosa che capisco, misogine, è che misogine, perché misogine? La disperazione di queste persone sono dispiaciuta. Sei dispiaciuta, bene, prendiamo atto. Non basta essere dispiaciuti, però, ho capito, no, però è già qualcosa. Vabbè, è già qualcosa, perché fa anche fare finta di non capire che queste persone sono nella più totale disperazione. Vabbè, sono disperati, certo, sono disperati. Abbiamo capito che sono disperati. Abbiamo disperati. E allora io vorrei... Punto a capo. Sono disperati, punto a capo. Benissimo, ottimo. Questo è un paese cristiano, cattolico. Aridaglia con questi cristiani. I cristiani devono cominciare a fare i cristiani. Bene, la chiesa li pigliasse dentro le innumerevoli case che ha. Ancora, con questa stronzata che stai dicendo. La chiesa, ho detto. La chiesa, ho detto. Alle volte lo fa, certo. Magari la chiesa facesse della cosa, è ovvio, certo, che la dovrebbe fare. Ecco, certo che la dovrebbe fare. I dormitori, ragazzi, sono tutti gestiti dalla chiesa. Ciao Alba, grazie. Ciao. Buonasera, salutatemi ciao. Due, quel fascista che parlava ma prima. Ma che fascisti, ciao. Tutti fascisti quando non la pensano come te, dai, ciao. Allora, Corrado, provincia di Bari, vai, forza. Sì, pronto. Andiamo avanti, dai, forza, che c'è un sacco di roba ancora. Vai, allora io avrei una soluzione a questo punto per questi migranti. Non passa giorno che non sento gente buona, brava, come Parenzo, come la Parietti. Ma che buona? che voglio, vi faccio nessuno parlare magari. Fallo ecco. Parlare, ma nessuno è buono. Tutti buonisti e tutto quanto. Buon, sei cattivo allora, sei cattivo. No, 76.000 persone che sono arrivate dall'inizio dell'anno. Basterebbe che ognuno di questi qua, e là ne abbiamo già due, se ne accollasse uno di questi qua, gli danno anche 30 euro, 36 euro lo Stato per mantenerli, abbiamo risolto il problema. Loro con la loro coscienza e noi... Infatti ci sono imprenditori che l'hanno fatto, hanno messo a disposizione i loro alberghi per guadagnarci. Se li ho pure io, quindi non sono un'artista, però ti invita a casa a pranzo due persone in più, tre persone in più della tavola imbandita che hai. Ma guardi, non che se vuol saperlo, uno può portare aiuti a queste tendopoli, lo può fare chiunque. Ma non è portando un panino. No, che un panino, portando cose che servono per la lavare. È dall'inizio della trasmissione che Parenzo ripete la stessa cosa. Beh, ma perché oggi l'emergenza è solo quella? Delle scene bellissime. No, oggi l'emergenza è solo quella. Al di là dei quattro stronzi che chiamano, ma tu sei fissato su questa cosa? Vuoi avere rispetto di chi chiama o no? No, abbi rispetto per i razzisti. Non ho nessun rispetto. Li chiamo quattro stronzi. Corrado, che chiamano pochi per fortuna, perché la maggioranza sono quelle persone che sono andate ad aiutare. Ma sicuramente le aiutano, lo faccio pure io. Ma non ho risolto il problema. La Parietti non risolve il problema facendo pulire il suo giardinetto a un eritreo o un etiope. O si trova una soluzione, perché il nostro paese è pieno di accattoni, di persone che stanno fuori dal supermercato a chiedere l'elemosina. È quella la condizione che vogliamo tenerli? No, quindi certo che o no. Fai entrare le persone, che gli dai una dignità, un posto di ma lavoro, ma non vogliono restare casa. Qui questi se ne vogliono andare in Francia, in Germania, in Svezia, in posti civili dove c'è lavoro. È inutile che continuate, non vogliono stare qui. I francesi hanno chiuso le frontiere, ma è vero, avete visto a Ventimiglia che è successo. Ma secondo lei bisogna anche ragionare, però hanno fatto bene. Ma però bisogna ragionare sulle cose. Secondo lei quelli di Ventimiglia perché oggi non volevano andarsene dagli scogli? Perché avevano il sogno di pagare altri 50-100 euro e andare in Francia, dove ci sono le loro famiglie e lavoro magari. Ce li hanno ributtati qua. Quindi questo è il motivo, non è che vogliono stare qui, non vogliono stare qui, si fidano, perché c'è gente di merda qua, quindi non ci vogliono stare, giustamente. In Italia c'è gente di merda, dunque, Parenzo, in Italia c'è gente di merda. No, teste di cazzo che chiamano e tutte concentrate qua. Ma non vuoi finire con queste teste di cazzo che chiamano? Ma sei impazzito, sei? È vero. Giuseppe dalla provincia, ma falla finita, va, Giuseppe dalla provincia di Bari, ma smettila, Giuseppe dalla provincia di Bari. Ma non dire stronzate, ma cerca di essere pragmatico, chi chiama uno per uno, non fare generalizzazioni. Molti di quelli ma non dire stronzate. No, io li definisco ma ti sei così, ammalato adesso te. Giuseppe dalla provincia di Bari, appena li incontri glielo dici, non fai generalizzazioni. Giuseppe dalla provincia di Bari, incontro per strada glielo dico, stronzo, certo. Va bene, razzista. Sai dire solo questo qua dall'inizio della trasmissione? No, Giuseppe dalla provincia dipende. Di Bari, solo questo, solo se questo. Chiama uno che dice stupidaggine, a mio avviso è che Giuseppe dalla provincia di Bari, aridaglio questa cosa, ma glielo diciamo. Sì, ma non c'hai bisogno di legittimarti ancora con questa stronzata. Giuseppe provincia di Bari, non legittimare rispetto a nessuno. Sì, ma mi pare di sì, è un errore. Giuseppe provincia di Bari, vai. Ed è un argomento stupido peraltro. Ma no, non è un argomento, l'unico che posso trovare, perché dall'inizio che dici queste stronzate, quando non ha chiamato nessuno, non ha chiamato nessuno di quello che definisci tu razzista, nessuno, e adesso invece tu ogni volta tun quelli che chiamano, Giuseppe dalla provincia di Bari, dai, forza, nessuno ha chiamato fino adesso di quelli negli che definisci tu. Negli ultimi giorni infatti mi riferivo. Ma chi se ne frega, stiamo facendo la trasmissione oggi, sono le 19:50. Quello che ha chiamato prima, parlando del perché sbarcano a Lampedusa e non a Malaga, è definito un idiota, deve bene. Sapere che la distanza tra l'hai già Tripoli detto, e Giuseppe Lampedusa dalla provincia di Bari, è 296 chilometri, Tripoli-Malaga, vada a vedersi Giuseppe, provincia di Bari, non c'entra niente, possono arrivare anche da un'altra parte, Giuseppe, quindi provincia ecco di Bari, perché non sbarcano lì. Giuseppe, provincia di Bari, Giuseppe, provincia di Bari non c'è, Angelo da Roma, dai. Ciao Cruciani. Dimmi, dai. Ne volevo semplicemente dire, io ascolto volentieri questa tua trasmissione, beh, sono sempre quasi pazzesco, d'accordo con pazzesco. Te, però non ci puoi abbuffare i coglioni con un sermone della Parietti in questo modo. Amico mio, ha parlato, abbiamo contestato, che ti devo dire? Cioè... Come? Che ti devo dire? Io l'ho contestata, ma... È una cosa esagerata, poi ripetono sempre le stesse cose. Se hai chiamato significa che ti sei incazzato anche tu, per cui va bene. Sempre le stesse cose, noi siamo stati migranti, ma noi andavamo all'estero per lavorare, questi vengono qua per tutti altri motivi, ma che cazzo di paragone è? Io ancora non l'ho capito questa storia, sempre a difendere questi zingari e cose, ma loro lo sanno come vivono gli zingari, lo sanno che a 12 anni gli comprano una moglie, lo sanno che vanno in giro senza patente tranquillamente, lo sanno che non lavora nessuno, ma che cazzo dicono questi? Ma che c'entra gli zingari adesso? Adesso rispondi a questo qua, Rispondi invece di dire cosa c'entra di Zingari. Rispondi. Stavo parlando dei profughi. Ma non decidi tu di che cosa si parla, anche gli ascoltatori lo decidono. Angelo, allora? Beh, io non ho difeso. Che dicevi? Sono sempre le stesse cose, sembra che hanno un manuale, ripetono sempre le stesse cose. Poi quando fai le domande concrete, dimmi qual è la soluzione e vanno sempre, tu sei razzista, tu sei nazista, ma quanto cazzo. Sempre la stessa cosa. No, ma soprattutto in anticipo, quelli che chiamano sono razzisti, sono fascisti, eccetera. Ma cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Non c'entra niente. Non ha chiamato nessuno di quelli che dici tu stasera, nessuno. Questi giorni c'è stata una carrellata. Ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? C'entra. Angelo, cosa c'entra? Si riferiva a quello. Ma non dire stronzate, no, dai, Angelo, allora. Bene, allora hai ragione. No, dico, questi qua io non li posso proprio sentire più, è una cosa esagerata, nei luoghi di lavoro, ecco, sembra che hanno un manuale, ripetono sempre le stesse cose. E gli zingari poverini e queste qua. Oggi, e gli zingari, oggi e gli zingari rubano ho sentito tutti. In televisione un tizio di Sel dire, l'ho ripetuto all'inizio della puntata di oggi, un tizio dire che insieme ai poliziotti per sgomberare le persone in maniera decente, perché sono viste solo due scene, in maniera decente, dagli scogli di Ventimiglia fino alla tendopoli che hanno messo alla stazione, ci volevano i mediatori. Beh, giusto, culturali. In buon senso, cioè spiegare voi a questi che non parlano italiano. Pazzi. Voi questi siete non parlano l'italiano, malati, si vedono siete arrivare pazzi, la polizia. Siete questi, pazzi. Siccome non sanno una parola di italiano, si vedono arrivare mettiti la polizia. Posto del questore, che li mettiti al posto del questore di Ventimiglia, vai. Sarebbe stato più intelligente. Sarebbe stato più intelligente i mediatori culturali. Mo vediamo, no, tutto, come diceva l'amico nostro. Mo diamo, mandare, insieme pure quello che pulisce il culo. Ma chi lo paghi tu? Mettiamo insieme anche quello che gli pulisce il culo. Veramente, o no? Stai parlando seriamente o sei stupido? Oppure le badanti. Se uno è pagato anche le badanti. Stupidaggini va bene, ma non penso Alessandro, che tu dica la posta. Alessandro, vai. Guarda che sono i volontari di Medicine Sans Frontiere. Arrivai con i Medicine Sans Frontiere. Siamo in Italia. Alessandro, vai. Non ti costano. Sì. Guarda che esistono anche qui. Faccio fatica a sovrastare. Non ti costano. È pazzesco, è pazzesco, è pazzesco. Insieme ai poliziotti per sgomberare con quelle scene che abbiamo visto, che sono ovviamente delle scene, per quello che riguarda le singole persone, delle brutte scene, ma sono delle scene normali, perché quelli non volevano entrare nelle camionette. Evitabile, ma evitabile come? Ma chi sei? Il questore sei? Bastava Alessandro mandare da Roma. Come fanno a Lampedusa i Medici Senza Frontiere, dove Parenzo ci sono Parenzo questore persone... dice che bisognava mandare i Medici Senza Frontiere come quando tu insieme fai ai questore, poliziotti. Tu ti ricordi quando tu fai Alessandro, Roma, il questore dai. Dici sei che bisogna patetico, usare il manganello patetico. Per menarli? Ma io lo dico, semplicemente perché tu fai il questurino e va bene. Vabbè. Io dico semplicemente per quel che ho visto a Lampedusa, ci voleva Medicine Sans Frontières. Chiamali come cazzo ti pare. Ma chiamali come ti pare. Ma puoi anche ironizzare su questo, ci sta. Alessandro, vai. Ma a Lampedusa lo fanno, sei mai stato? No, dici stronzate apposta per fare lo show, va bene, per carità. Vai Alessandro, dimmi. Buonasera, intanto ringrazio Cruciani perché lei è un grande, è riuscito ad allietare la mia serata, perché volevo telefonare incazzato, ma lei riesce sempre a farmi piegare in due dalle risate. Allora, sono uno dei quattro stronzi, così me lo dico da solo, e mi sono già autodidattato. Aspetta che c'è la pubblicità, quattro stronzi, razzisti, come dice Parenzo, anche idioti e pezzi di merda pure aggiungiamo così, anzi fascisti, razzisti, nazisti, tutti quelli che non sono d'accordo sul fatto che bisogna accogliere tutti, che tutti devono venire in massa e per carità perché hanno fame oppure perché fuggono dalla guerra, tutti quelli che vorrebbero regolare questa situazione e che pensano che fino adesso i governi italiani siano stati delle schifezze, per dire delle così, per usare un eufemismo, sono tutti nazisti. Siccome dicono, beh, ogni tanto forse questi della Lega qualcosina, non dico tutto, ma qualcosina di giù, qualcosina, l'1%, potrebbero anche avere ragione. Razzisti, fascisti, nazisti, pezzi di merda, eccetera. Così ragionano, che bisogna fare. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. La Zanzara. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Ormai è tutto degradato ormai. Sì, ma dai, fatti bravi. Oh, look at my face. Ora, al di là dell'immigrazione c'è tanta altra roba, per esempio Ségolène Royal, vi ricordate chi è Ségolène Royal? Adesso è ministro, è stata in corsa per l'Eliseo, la ex moglie di Hollande, l'attuale presidente francese, credo che sia ministro dell'ecologia, che cos'è Parenzo? Non mi sì, ha preso il posto, è entrata adesso al governo. Vabbè, comunque ha detto una puttanata oggi, se l'è presa con la Nutella. Con la Nutella, amica mia, non mangiare più la Nutella per salvare il pianeta. perché sostiene la signora, perché non è francese solo per quello, ma certo, perché i francesi l'olio di palma, se la prende con l'olio di palma, no? Ma l'uso solo perché non è francese palma. Perché se fosse stata francese l'avrebbe difesa, perché i francesi sono delle, anche queste, delle belle teste calde, Stavi dicendo testa di cazzo, ti sei frenato. Sì, qualcuno sì, un po'. Dai, lo chiamano il computer, lo chiamano ancora ordinateur. Vai lì, gli parla in inglese, dice excuse me, computer. Vabbè, no, monsieur, ordinateur. Dice come ordinateur? Si chiama computer. No, monsieur, ordinateur. Computer si chiama in tutto il mondo. Ordinateur. Ma dai, ma rompere i coglioni, apri le frontiere. No, no, tenetele chiuse le frontiere, fate bene. Tenetele chiuse, sì, fate i cazzi vostri. Sì. Fate i cazzi vostri. Che rompono le palle alla Nutella pure. Date. Solo perché non è francese, peraltro. No, ma questa è una follia, Ma c'è abbiamo no, pure il punto, è solo quello. Prendiamo la frase in francese. Ah, certo, perché poi le stesse cose che ci sono alla Nutella ci sono in tanti altri prodotti francesi, Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon Nutella. Ben oui, mais il faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant faut pas manger du Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. Se la prende con l'olio di palma. Giustamente il conduttore gli dice ma è buonissima la Nutella, perché no? Ma no, ma c'è l'olio di palma che provoca, eccetera, eccetera. Dai. Non mangiare più la Nutella per salvare il pianeta. Capito? La ridicolaggine, la deforestazione massiccia che ha come conseguenza anche il surriscaldamento climatico. E secondo me la deforestazione è causata anche dall'uso dell'olio di palma contenuto nella Nutella. Dovrebbero utilizzare altre materie prime. Pare normale che un ministro francese se la prenda con la Nutella? Io fossi la Ferrero farei l'inferno, farei. Non bisogna mangiare la Nutella. Come cazzo si fa? È come se noi dicessimo non bisogna mangiare, che ne so, il che è un prodotto francese, qual è? Il Brie, ma la Nestlé, cioè no, è multinazionale per quello. Sì, boicottiamo, credo, i prodotti della Nestlé, cioè Camembert, che ne so. Vabbè, quello lo fanno anche in Italia, è un po' diverso, ma insomma. Radio Padania, dai. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Requiem, requiem a Parenzo, a tutti i benpensanti che hanno perso in queste ultime elezioni, e città importanti come Venezia, signori. Certo, a Venezia ha vinto il centrodestra. Fai vedere le tue braccia possenti a chi ti vuol fermare. Migrare anche dal punto di vista sessuale, oggigiorno c'è il sesso liquido, che non significa farlo in una pozzanghera o in mezzo al fango dove magari piacerebbe anche il sottoscritto. No, no, no, no, no, no, no, il sesso liquido è quello che oggi ti senti un maschietto, però forse tra mezz'ora sarà una femminuccia. Questo era Varin, questo era Varin. Varin contro il gay pride. Senza dubbi né ripensamenti. Con Marino in prima fila e il gay pride romano. Bellissimo far vedere il culetto e qualcos'altro a tutti quanti. Bellissimo vedere gli uomini che si baciano e limonano in centro Roma. È fantastico. Peccato che a me faccia schifo. Onore a chi ha altri gusti sessuali ma non fa la checca in centro Roma. Fai sentire quanto è forte la tua voce. Oh, ogni tanto ospitano una signora che si chiama Pacchiotti, che è una di un'associazione per la vita, sai, queste qua, no? Contro l'aborto. Senti che dice sul gay pride. Abbiamo dovuto assistere alle ormai solite, indecenti, blasfeme parate che vanno sotto il nome di gay pride, che hanno lordato Roma capitale. La libertà. Allora andiamo a Brindisi, Raffaele, vai. Anzi no, c'era prima Alessandro da Roma. Alessandro, vai. Alessandro. Sì, buonasera. Allora? Allora, io ho mia madre, 85 anni, invalida al 90% con lo sfratto esecutivo. Sì. La pensione minima, sapete quanto mi aiuta lo Stato? Lo Stato dove mia madre ha pagato le tasse, dove ha pure vissuto la guerra? Zero. Zero, zero. Uscite dai salotti, Parenzo, ma non c'entra Parisi. Questo però, gli immigrati. Cioè, questi immigrati non è che tolgono a sua madre. Sua madre ha un diritto. No, non è che quello che dai a loro toglie a sua madre, no, che ha un diritto. Io non voglio togliere a nessuno. Io vorrei che lo Stato pensasse prima alle persone come mia madre. Ma non è pensa legittimo sua madre, o non ma è legittimo? Guardi che in questo momento non pensa né a sua madre né agli immigrati. Primo. Beh, allora qui non c'è priorità. A mia madre, qui allora. Sua madre ha tutti i diritti e li deve e ha diritti per avere quelli. E ci sono anche i soldi che qualcuno se li è rubati, intascati, li hanno spesi male. Ma non è che quei soldi per la sua mamma no, vanno a finire agli immigrati. Questo è il grande equivoco. Questo è l'equivoco grande. No, non c'è nessun equivoco. Mia madre ha diritti zero dal punto no, di vista diritto economico. In quanto cittadina italiana, in quanto persona in difficoltà. Perfetto. In quanto allora, persona che dovrebbe essere coperta dallo Stato. Lo sa cosa le hanno, lo sa cosa sociale, le hanno detto? No? Siccome al 90% e non il 100% non ha diritto all'assegno di accompagno e siccome quest'anno non hanno questo la regione gliel'ha detto? No, la regione, no, il comune? Questo, no, allora per avere un pensionato, si informi, l'assegno di accompagno deve avere il 100% più la gravità. Però ha diritto a 0 euro. Beh, è sbagliata la legge evidentemente, va rifatta. Oppure avrà diritto a un altro livello Alessandro, di assistenza. Alessandro, questo per dire cosa? La conclusione no, per dire per cosa? Questo per dire che lo Stato italiano pensasse prima ai suoi cittadini. Lorenzo, uscite dai salotti. Ma non è in contemporanea, non è in contemposizione. Lui lo vede in contraddizione, un motivo ci sarà così. Perché lo vede in contraddizione. Ma nei fatti non è così. Non nei fatti non è così, benissimo. No, non mi risulta sia così, nessuno può sostenere il contrario. Non ci sono le risorse per aiutare i cittadini italiani, ma ci sono le risorse per... E li scaricate tutti nelle periferie. Un campo Roma e Parioli, io non l'ho visto. Una tendopoli e Parioli, non l'ho visto. Va bene Alessandro, Raffaele Brindisi, vai, poi Marco D'Alecco, vai Raffaele. Buonasera, mi vorrei collegare un attimo a quello che sta dicendo questa persona, perché Parenzo ha risposto che non c'entra niente la pensione della signora o i diritti della signora con quello che succede con no, lui dice che una cosa è l'accoglienza dei migranti, lui dice, degli immigrati, dei profughi, questo. Dei clandestini, quello perché che se togliamo i soldi alla pensione, il 15% che è stato tolto alle pensioni, no? Possiamo dargli agli immigranti e lì possiamo fottere i soldi alle persone, no, perché non devono approfittare. Chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto sta roba? Lo sto dicendo io, no? Ma non ho capito. È una follia, però, non è vero? Perché è una follia? Se ecco col trappolo di non è una vero. Risposta presente inutile che dice una follia cioè, ma non è non vero allora ragazzi calmi diversa. Raffaele non ho capito qual è il ragionamento è no, aspetta, allora facciamo... rifaccio il ragionamento. Dai. Servono dei soldi per gli immigrati, dove li prendiamo? Abbassiamo le pensioni superiori ai 1500 euro e togliamo il 15% alle persone come a mia madre per esempio. Ma non è così, ecco, la cosa non è così, vanno funziona a finire così. In tasca ai faccendieri di turno, ma non funziona così, posso fregarli i soldi sulla pensione, no, perché gli devo dare. Non e funziona, non è così. Non è così. Funziona così. Mi poi dispiace. Raffaele, andiamo avanti. Poi voglio dire una cosa su Parenzo, se è possibile. Sì, puoi dire quello che ti pare, però ecco, andiamo. Io vorrei che lei, che fa la zanzara tanto tempo, facesse la zanzara in un luogo aperto dove il pubblico sta tu per tu con Parenzo. Perché? E nello stesso tempo, quando una cosa non gli va a genio di una persona che sta intervenendo, Parenzo lo chiama testa di cazzo o coglione. Beh, dipende. Però a tu per dipende tu. Da cosa dici. Vorrei vedere se c'ha le scatole per affrontare le palle, non le scatole, le palle, perché tutti gli ebrei sono così. Ma che c'entrano gli ebrei? Mi fa diventare un razzista in questo modo. Ma che c'entrano gli ebrei adesso? No, perché lui è ebreo, si comporta così. Spero ma che cazzo c'entra che è ebreo? Dai, questo non si può dire che è una stupidaggine. No, sì, io sto dicendo stronzate. Questa è una stronzata. E ogni tanto si possono dire delle stronzate. Le dice infatti l'ha detta. Infatti l'ha detta. Ho capito, hai detto una stronzata, adesso cosa c'entra? La posso anche dire, no? Lei lo dice tutte le sere. Va bene, Raffaele, grazie. Le persone che gli dicono le cose diverse dal suo pensiero, perché dico non può dare una risposta per convincere quell'altra persona. Ma io posso io rispetto chi la pensa diversa da me. Si assume la responsabilità del coglione, del razzista. Chi è razzista, a mio avviso, merita di essere definito razzista. Poi chi la pensa diversamente da me, io lo rispetto tantissimo. Ma ad esempio, non ho nessun problema a dire. Adesso sembra che io ti attacco per le definizioni che dai della gente. Figuriamoci, io sono conosciuto e riconosciuto come quello che risponde mano ogni tanto agli ascoltatori. Della gente che abbiamo sentito qui, hanno detto in tutti questi mesi delle cose molto razziste. Ma questo oggi? Cosa diavolo c'entra oggi questa roba? Nulla, zero. Marco D'Alecco, zero. Marco, dai. Marco, dimmi. Ciao, ascolta, io volevo sottolineare un attimo il razzismo di gente come Parenzo e la Parietti che rivendicano la propria superiorità intellettuale, ma morale nei confronti di gente come me che non vorrebbe. Ma che è un gioco dialettico quello di parlare dandoci dei coglioni, degli imbecilli. Parenzo, non c'è nessuna superiorità. Due giorni fa diceva che bisognava andare a Milano in quel circo di dove cantavano le canzoncine del Duce ad arrestarli, mentre oggi devono andare i mediatori culturali sugli scogli. Beh, cioè, quella è apologia di fascismo. No, ma che due siamo... misure? Quello è un reato, apologia di fascismo. Reato, è già deciso tu che è un reato. Invece devono dare le canzoncine sugli scogli dagli immigrati clandestini, perché sono clandestini. Devo andare a raccogliere le cagate che hanno fatto sugli scogli, tranquillamente accompagnarli per mano. Parenzo, hanno dormito alla ghiaccio per due giorni e il problema è che quello che dice lei, che nessuna televisione ha documentato, le feci di questi qui che no, secondo le feci lei... è una stronzata, i mediatori culturali ancora più grande della stronzata non di quello che ha detto, è un'operazione di... ma che a c'entra Lampedusa? E appena arrivano a migliaia e per spiegargli che cosa gli Parenzo succederà vuole insegnare a quelli che hanno fatto lo sgombero oggi a Ventimiglia, i valorosissimi poliziotti che oggi hanno fatto niente, i bravissimi poliziotti che hanno fatto oggi uno sgombero a Ventimiglia, che vengono tacciati da qualche esponente di vari partiti come dei Aguzzini, che hanno semplicemente ma che hanno fatto, scusa, hanno messo dentro ordini, i camion e dentro loro. Delle macchine delle ecco, persone se avessero mandato lì delle persone che parlano l'arabo ad esempio e avessero spiegato a questi qua guardate che non vi stiamo arrestando, perché se uno arriva in un paese e non parla neanche la lingua non sa che succede e prova a metterti nei panni di questi e per due giorni dorme a radiaccio. La gente di sinistra come Parenzo, ma che sinistra, ma non c'entra niente, quando vanno contro le manifestazioni di sinistra o contro, vabbè, questo non c'entra niente, ma che c'entra, sono super legittimati quando devono andare appunto come l'altro giorno a Milano, secondo Parenzo dovrebbero andare ad arrestare quei quattro vecchietti. Vincenzo da Roma, vai, ciao Marco. Vincenzo Roma. Luciani, a Parenzo vorrei chiedergli la cortesia, ma è una questione di educazione, deve imparare che una persona che ha un'opinione diversa dalla sua non è per forza un criminale. No, e certo. Questo è un vizio della sinistra, e questo lei sicuro. Appartiene alla sinistra, che è sempre stato così da quando io sono ragazzino, questa cosa l'ho sempre avvertita. Ma dipende cosa uno dice, se uno è un razzista viene chiamato razzista, può dire anche una cosa che sia all'opposto, suo contrario. Io non mi sognerei mai di dire che sentiamo lei è cosa dice ragiona in quel senti, modo. Alba Varietti mi ha dato del nazista semplicemente perché sulla questione dell'immigrazione, tra l'altro la penso esattamente come il Presidente del Consiglio che due mesi fa voleva andare a bombardare i barconi prima che partivano, lo diceva Renzi, Presidente del Consiglio del Partito Democratico, che due mesi fa, che due mesi fa rispetto a queste persone che arrivano che sono anzitutto delle persone. Ma chi ha detto che è insensibilità? Io ho detto semplicemente che la polizia ha fatto un'operazione normale di sgombero, ha sbagliato la polizia, pubblicità. Secondo me là sì. Ha sbagliato la polizia. Parenzo, due punti, la polizia ha sbagliato. Pubblicità. Monellacci. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Dai, chiudi! Barra clandestini, chiamatemi come volete, a seconda se siete più leghisti, scusa, o meno leghisti, che urlano, che urlano perché sono presi. Sì, ma tra l'altro ci fosse stato uno che non ce la fa culturale, con i tempi della radio non ce la fa apparire, chiamalo come ti pare, ci fosse stato uno che gli avesse spiegato a questi immigrati cosa sarebbe accaduto, si sarebbero evitate quelle che scene, forse. Che ne lo sai se non lo sai, so non perché non a è stato spiegato dove sono stato. No, ma lo sai se è stato spiegato o no? Lo non sai se è stato. Non ti risulta. Perché se il mediatore non culturale, che fa ridere il nome, ma una persona che parla la loro lingua e che dice: guardate, adesso viene la polizia, non è che vi sbattono via, vi prendono, vi portano perché potete stare Vincenzo qua. Cioè, da che Napoli. Glielo spiega, perché se questi vedono arrivare delle persone. Senti, amico mio, quando si deve sgomberare un posto, si sgombera, punto. Ma non è così. Si sgombera. Si sgombera un posto. Si sgombera. Poteva evitare quel casino, che poteva diventare ancora più grande. Un ascoltatore mi dice: sai cosa servirebbe in Italia? La polizia di Parenzo, quella israeliana. Quelli sì che sanno trattare i clandestini. Devo dire che in questo caso. Sì, in questo caso, però, non ha del tutto torto questo ascoltatore. È una stupidaggine. No, non è una stupidaggine, è vero. Quelli operano in una zona di guerra. Ma questa qua diventa ogni tanto una zona, non dico di guerra, ma di emergenza. Non c'era nessuna guerra. Vincenzo da Napoli. Di emergenza. Non nessuna persona armata. Sai benissimo che la polizia israeliana avrebbe agito in un altro modo. Vincenzo da Napoli. Sai che è un paragone stupido? Non è stupido. Ci sono gente armata, è diverso. Ma lo sai anche tu, lo fai per polemica, va bene. No, ma non è così. Mascheriamo la questione che dici, però. È una polemica stupida perché quelli sono disarmati e da due giorni stavano là nudi. Vai, sulla spiaggia, nudi. Che pericolo erano? Infatti, li hanno portati in una tendopoli, ottimo. Se ci fosse stato uno che gli avesse spiegato cosa fare, una roba umanitaria. E infatti dovevano spiegarglielo, poi ci staranno bene. Bastava spiegarglielo. Famo cosa? Non glielo spieghi. Vincenzo, oh, andiamo. Magari l'hanno fatto, amico. Magari l'hanno fatto e non lo sai nemmeno. Vincenzo da Napoli. Neanche tu lo sai, però. Volevo fare. È uguale. Hanno sgomberato, hanno fatto bene. Vincenzo, vai. Posso? Allora, volevo fare due considerazioni. La prima nei confronti di Parenzo, il quale dice che sono tutti razzisti, però tutti. Ogni qualvolta io lo ascolto, e lo ascolto spesso perché li ascolto spesso in radio, lui fa sempre paragoni con i napoletani. Se c'è, diciamo, da fare un paragone con gli italiani che delinquono, lui parla dei napoletani, dice che a Napoli succede anche questo. Ah, c'è illegalità, certo, sì, sì, in alcuni quartieri c'è grande illegalità e lo Stato non entra. C'è anche nel Padovano, c'è anche nel Varesotto, però tu non ne parli mai, parli solo dei napoletani. No, c'era a Padova, c'era via Anelli, famosissima, dove c'era illegalità, certo. Ora è stata modificata, diciamo. Del microfono e radio. Ci sono enclave di illegalità ovunque, a Napoli più di altre. Però tu non lo dici mai. Parli sempre di napoletano, quindi anche tu sei Rione Sanità, Scampia, certo, poi c'è Via Anelli a Padova, a Mestre, dappertutto ci sono i club. E dillo, ti ho dovuto sollecitare io per dire questa cosa. Ci mancherebbe altro, perché, tu di solito, perché chiaramente per te è più facile, forse fai più audience, però sei un ma non è tu. Quello. Non è quello, ma fermo, fermo traffico. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Ci sono in giro animalisti, vegetariani, gente contro la carne, che rompono i coglioni pure ai macellai che fanno il loro mestiere. Sì, buonasera, io sono dell'associazione Fratelli Animali. Sì. Lei si rende conto che è complice dell'olocausto animale? Sì. Lei è complice dell'uccisione di esseri viventi. E cosa dovrei fare? Lei mi dà un posto di lavoro. E lei dovrebbe fare un'altra cosa, non uccidere questi disgraziati. Allora devo uccidere la gente per campare, scusate, ma non posso cambiare vita. Lei mi dia un posto di lavoro, io cambio subito vita. Mi do anche le chiavi della macelleria e vado via. Ma lei lo sa dove ha chiamato lei? Ho chiamato in una macelleria. A Napoli? Sì. E a Napoli, già per sopravvivere, facendo il macellaio, onestamente, si fanno tipo come nel circo, si lavora, no? I salti mortali. Lei mi dice che io attualmente, siccome la situazione di Fratelli Animali, io adesso devo girare la macelleria perché faccio male a fare questo mestiere e dovrei fare qualche altra cosa, devo prendere i legumi. Ma per lei sono nemici gli animali? Sono fratelli? No, io non sono fratelli, perché a me gli animali mi danno da mangiare, scusate, mica sono nemici. No, l'ho capito, però sono amici di un altro tipo, mi perdoni. Ma in latino come dicono? Morte tua, vita mia, scusate, che me fa? Arrivederci, buona serata in bocca al lupo. Non dico crepi, me l'ha fatta apposta. Lei me l'ha fatta apposta. Crepi, bravo, il cacciatore. E non dico bravo, solo perché lei è simpatico, non dico crepi il macellaio, va bene? Arrivederla. Arrivederci. Massimiliano da Roma. Buonasera. Vai. Gente razzista, gente bastarda, vedo che sono molti qua in serie, ma hai chiamato apposta voi, no? Perché sono troppi, oh. Sono troppi. C'hanno il problema dei rom dei migranti e della gente che sicuramente sta peggio di tutti quelli che hanno chiamato. Sta peggio pure di me che sto chiamando. Pensate sti babbei che chiamano rivolti con la testa verso orizzonti de merda e non capiscono che gli stanno a svuotare la scuola, gli stanno a svuotare lo Stato, gli stanno a attaccare la Costituzione, non gli danno un posto di lavoro, chi ce l'ha lo sta perdendo e gli attaccano l'articolo 18. Questo non è un problema per sti babbei, è il problema loro qual è? I rom, i migranti, quell'altro scemo di prima saria con gli ebrei. Ma vi rendete conto gli italiani dove stanno? Una volta, noi due volte siamo stati come popolo, due volte, nel risorgimento e nella resistenza, ha mozzato la testa. Adesso è lo specchio del paese, governato da Renzi, e l'oppositore chi è? Matteo Salvini, che ci distrae tutti quanti parlando, se fa le magliette, vabbè, voglio sta zitto, se fa le magliette, le ruspe, e te Crucià, e te gli dai retta, e te gli vai appresso a sta gente. Te che hai votato Grillo, tra l'altro, non è che stavo a parlare della scienza. Guarda quanto gli vado appresso, io guardo. Tu gli vai appresso. Penso dalla mattina, alla sera. Allora, a Salvini, questo è il punto. Tutti questi scemi che hanno chiamato prima, no? Perché tu dici che sono tutti scemi, sì, sì. È tutta gente che non guarda il momento che sta vivendo. È la solita cosa, Massimiliano. Sei molto bravo tu, però il tuo discorso si può ridurre. Un semplice ragionamento. I problemi sono altri, tu dici. Cioè, i veri problemi dell'Italia non sono gli immigrati, i rom, su cui specula la politica, che in parte è vero che specula la politica, ma sono, che ne so, appunto, la Costituzione che viene cambiata, il lavoro che non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. I politici. La scuola pubblica, quello che ti pare, cioè, la scuola pubblica. Tu voglia che ti per culo, tu voglia che. Ma non ti sto pigliando per il culo, tu sei. Tu per culo, perché io non so come quei babbei che hanno chiamato prima. Io sto dicendo. Un problema di merito. Sì. A me la mia vita me la cambia chi non mi fa arrivare alla fine del mese, chi non mi permette di vivere una vita. Ma per fortuna, per fortuna, non è il governo che ti deve. Non è i padroni della tua che vadono le tasse. È quella gente là che non mi risulta. Qualche imprenditore evaderà. I ricchi, a me me leva, oltre che me leva a me, i ricchi come. No, come te, vabbè, perché te sei mezzo poveraccio, non lascia perdere, io te voglio pure bene, ma lascia perdere, i padroni tua, quelli sono i nemici miei. I miei padroni sono tanti, sì, ed è la Confindustria, quindi, in questo momento, e non so, e non so. Agnelli, quell'altro porco dei Draghi, quella gente lì. Che Draghi non mi risulta, essere padrone di Confindustria, amico mio, comunque. Draghi mi risulta essere, sai, ti dico ABCE, ti risulta ABCE. Sì, che c'entra con Confindustria, scusa, è padrone mio. Oppure, no, se vuoi te puoi dire. A parte che io non ho padrone, quelli sono i nemici miei. Sì, solo vabbè. Che se glielo dici a questi quattro cannibali che hanno chiamato prima, se gli parli di Fondo Monetario Internazionale che ci distrugge, di Banca Centrale Europea che ci sfonda, sì, di razzisti che ci distraggono, ossia che ti dicono ma ci stanno i rom, ci stanno i migrati, una manica dei babbei, un popolo dei babbei. Sei molto simpatico, Massimiliano, però ti dico che sarò pure simpatico, io dico ma la penso. Sì, ma infatti mi ho detto non è possibile. Sì, stai calmo adesso, stai calmo, stai tranquillo. Allora, prego, c'è ragione. No, ma stai calmo, stai tranquillo. Ma ti devi scaldare. Il tuo target, io sono il tuo target. Ma non c'entra niente, il target non c'entra nulla in questo caso, amico mio. Prego, il problema è un altro. È che tu hai parlato di padroni, a parte che noi non abbiamo padroni. No, non abbiamo padroni. No, mica ce l'hai. Chi te lo dà si vende a te? Ma che c'entra, scusa? Ma quelli che evadono le tasse. Ma chi sarebbero quelli che evadono le tasse? Allora, il problema mio sono i ricchi che vado nelle tasse, non sono i rom, non sono i migranti. Va bene, va benissimo. Anche il mio. Già il fatto che io lo possa dire in questa radio è già un fatto, e questo lo riconosco, per carità di Dio, sto facendo un discorso. Hai detto che Squinzi è un bandito, ladro, evasore fiscale, hai detto che tutti i padroni. Ho detto tuo padrone è Squinzi. Vabbè. Senti, il punto è che il mio problema sono i ricchi, la Confindustria che evade le tasse, gli grandi imprenditori che si arricchiscono, e non i rom e gli immigrati, ho capito, negli ultimi vent'anni i padroni tuoi e quelli come quelli che difendi te, se sono arricchiti dei 500 volte, quelli come me se sono impoveriti di 20, o sai che fammi i conti, io 10 anni fa comunque riuscivo ad arrivare a fine del mese quasi dignitosamente, e come faccio l'impiegato, non è che so uno che va, non faccio il martire, non so uno che sta in colla e valigia aeroporto come ho fatto da ragazzo o vado in fabbrica, però il problema mio, e guarda che questa è una cosa che non viene mai passata, mai, c'ha ragione, ma Parenzo cerca di dirle le cose, poi lui ovviamente fa un po' nota di colore pure lui, ma quando contro batte a sta gente qua. Giuseppe, tu sei intelligente, tu gli dai la guazza, questi sono pericolosi. Quando arriveranno loro e governeranno loro, perché questi governano, perché tanto o loro o i cretini, allora? Siamo sempre là. E sono cazzi di tutti quanti, pure di tua. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao bello, ciao. Ciao. Amici miei, siamo al flop. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara. Amico mio, e allora? Allora, Marco da Roma, vai Marco. Cruciani, ciao. Argomento Nutella. Sì, però parla senza viva voce, ecco, senza auricolare. Tutto. Normale, normale. Vai, dimmi. Allora, argomento Nutella. Io dico una cosa, premettendo che non è il caso esagerare, nel senso che ci respiriamo e mangiamo tutto lo schifo, ok? Sì. Però l'esempio mio è questo. Lo smog non lo possiamo evitare, però non mi metto a respirare sotto una marmitta di una macchina. Questa è la Nutella. Ce l'ho anch'io a casa, un cucchino ogni tanto. Però la Nutella è fatta male. Margarine idrogenate, olio di palma. I prodotti della Nestlé fanno male. Se ci hanno fatto credere che i bambini li abbiamo cresciuti, la pubblicità della Ferrero con la Nutella, ok. Sì, però qui stiamo parlando di un'altra cosa, Marco. Non stiamo parlando di prodotti che fanno male, fanno bene. Poi ci sono mille criteri per giudicare un prodotto. Io spero che se un prodotto, come dire, è nocivo per la salute, ovviamente sì. Ci sono i vari ministeri, i vari organi preposti, Marco, a mettere. Sì, scusami, Giuseppe, posso dirti una cosa? No, ma uno può, posso anche essere d'accordo con te. Sì. Anch'io non sono un grande, come dire, mangiatore di Nutella. Tu grandissimo. No, ma va benissimo. Sono golosissimo. Sì, ma va benissimo che tu sei colossissimo di Nutella. Il punto è un altro: qui stiamo parlando della stronzata detta dal ministro dell'ambiente, ecologia, non so come diavolo è, francese, che si chiama Ségolène Royal ed è l'ex moglie di Hollande, nonché ex candidata. Non per caso non è stata eletta all'Eliseo, signora Ségolène Royal, la quale ha detto, non parlando di prodotti francesi ma di un prodotto italiano o comunque di un'azienda italiana, della Nutella, che non bisogna mangiare la Nutella perché l'olio di palma, perché la deforestazione, perché il clima, perché capito Marco? Questo è il punto fondamentale. Adesso non apriamo il dibattito da Nutella fa bene, la Nutella fa male, perché è un dibattito come dire, che ha 20 anni, 30 anni se non di più, e non si può risolvere se non nel fatto che ognuno fa quello che vuole, chi piace, non è... capito? No, volevo precisare che in effetti fa male questo, e le prove ci ma sono. Ma non fa male da chi lo dice che fa male? Vabbè, ma a te fa male, voglio dire, ma non, no, no, ma chi, ma voglio dire, se è cioè chi è che dice che fa male? Allora, ogni cosa merendina, biscotto, grissino, eccetera eccetera, che in commercio contiene olio di palma, per cui questo, come dire, rafforza la stronzata che ha detto Ségolène Royal, che ha detto una puttanata anti-italiana, semplicemente, non so perché, citando la Nutella, chissà per quale motivo ha voluto fare una roba contro la Ferrero, ma insomma questo è il punto. Poi che tu... ma fa male, secondo Marco fa male, certamente se un bambino si ingozza di Nutella non è il massimo della vita, ma questo, non ho mai vuole, visto nessuno questo vuole dire Marco. Perché ha mangiato troppa Nutella. Beh, come, insomma, troppa Nutella no, ma insomma, Nutella o troppa mai cioccolata sì. Che fa ma sì, ma come qualunque Marco, cosa. Marco, cosa volevi dire? Spiegalo. No, non solo, non è la cioccolata, perché se voi prendete la Nutella della Novi, ok? È un'altra cosa, perché la dovete tagliare, la potete prendere col cucchino, ma tagliare col coltello. Ma che stupidaggine, la Nutella va spalmata per forza, è il suo bello, la Nutella si spalma, dai. Ciao su, Marco, ciao. Rompere ciao, le balle ciao sulla Nutella, pensa a te. Allora, siamo in collegamento con una signora che si chiama Anna Maria Pacchiotti, che è presidente dell'associazione Onora la Vita. Onora la Vita. Chi è che non lo fa? Interviene, questo è vero, che tutti noi onoriamo la vita, ma evidentemente secondo la signora Anna Maria Pacchiotti c'è chi non la onora. Spesso interviene a Radio Padania. Signora Pacchiotti, buonasera. Buonasera a tutti voi, anche agli ascoltatori. Eccoci qui, signora Pacchiotti, con questa voce molto gentile, molto, molto serena, molto squillante. Signora Pacchiotti, perché lei onora la vita e noi magari non la onoriamo? Ma chi le ha detto che voi non la onorate? Cioè, io diciamo che ho fatto parte di molti centri d'aiuto alla vita. Sì. un po' dappertutto. Scusi, l'aborto andrebbe cancellato secondo lei? Come dice? L'aborto andrebbe cancellato, la legge, allora, sull'aborto? Se voi volete parlare di aborto, dobbiamo partire allora dalla bellezza del concepimento. Sì, beh, cioè, su questo non c'è dubbio. Se io parto dal fatto che ognuno di noi, sì, è nato da un atto d'amore uomo-donna, sì, dove ci sono 23 gameti, sì, maschili, certo, 23 femminili, che no, vanno a comporre un DNA totalmente nuovo e un genoma nuovo, sì, in quel momento scocca la vita. Scocca anche quello di Varin, pensa te. La testimonianza, pensa, non vuole essere per forza bigotta o religiosa, ma semplicemente basata sulla realtà, sulla legge naturale. Scusi, sulla legge. Dunque, non ho capito, secondo lei la legge sull'aborto... Allora, la legge sull'aborto, va cancellata. La legge 194 del 78, va cancellata. È stata creata dai democristiani d'Andreotti. E allora? Prima c'è stata la legge Fortuna, che ha disgregato, sì, però la adesso non facciamo la storia con il divorzio. Dopodiché c'è, cioè, stata lei è anche contro è anche contro il divorzio lei? Ah, io sono contro tutto quello che può disgregare la società. Ma lei quanti anni ha, signora Pacchiotti? Io non glielo posso dire perché sono una femmina. Ma che c'entra, scusi. Però le dico questo. Ma dove vive, nel mondo reale o nel medioevo? Io sto vivendo in un mondo che, cioè, sta crollando. Sta crollando. A causa, attenzione, della denatalità, come dice Gotti Tedeschi. Signor Gotti Tedeschi, sì. A causa della... Gotti Tedeschi, sì, del Sole 24 Ore, ha scritto, sì, sulla vostra rivista. Sì. Dice denatalità più, sì, immigrazione uguale, sì, decrescita. Ma lei è la, sì, ideologa di Salvini, signora Pacchiotti? Come dice? Lei è l'ideologa della Lega? Io non sono affatto ideologa di nessuno. Io sono un essere senziente, pensante, sì, e ho un certo discernimento. Oltretutto, sì, ho una mostra che si chiama Il Miracolo della Vita, sì, nella quale ho delle testimonianze di laici impegnati. Non c'è dubbio, signora Pacchiotti, le voglio chiedere, se le voglio chiedere una cosa. Quando una ragazza, magari, mettiamo un caso estremo, viene, sì, io lo faccio sempre questo esempio. Ma i casi estremi sono sempre quelli da evitare. Però perché facciamo, non sono la norma. Però una ragazza viene stuprata. Lo stupro è una di quelle valvoline che vengono fatte passare per poi, diciamo, se per un caso unico, sì, noi vogliamo legiferare, il male diventa norma, si moltiplica, sono diventati milionati e generazioni mancanti all'appello. No, ma non ho capito e bene. E la decrescita economica. Ma che c'entra lo stupro con la decrescita economica? Se uno c'entra, viene stuprato, che facciamo? Perché dallo stupro è partita la menzogna della legge. No, ma se uno viene stuprato, mettiamo un caso, una signora viene stuprata, una ragazza viene stuprata, ha diritto e rimane incinta. Ma lei mi spieghi una cosa, mi risponda. Il bambino concepito ha colpa? Ma è questa la solita argomentazione. Ma che c'entra il bambino concepito che ha colpa o no? Che deve fare questa qua? Deve avere il figlio per forza da uno che l'ha stuprata? Allora, me? Io non dico, questo può essere un caso unico. No, ma mi dica, deve avere, ma per forza il figlio. Ma questo è il caso unico, che è il Grimaldello, che ha voluto, no, ma, fare la, vabbè, falla nella diga. Lasci perdere il Grimaldello, la diga, eccetera. No, lei che cosa fa? Io penso che sia una violenza giunta a violenza. E dunque bisogna che metta al mondo sto figlio. Non ho detto che bisogna che metta il mondo, capito, ma due voglio sono le soluzioni, o abortisce o mette il mondo figlio. Comunque un figlio, e dunque l'aborto è sempre omicidio. Ma abbia il coraggio di dire che deve mettere al mondo il figlio per forza, che bisogna, no, no, allora la forza non esiste, ma non esiste neanche il dover concepire una legge iniqua per, vabbè, un caso. Va bene. I casi limite sono il Grimaldelli nella diga. Senta, ma le coppie gay non governa. Le coppie gay, che cosa producono nella società, secondo lei? Allora, ci sono degli interessi in campo molto finanziari, molto alti. Beh, fortissimi, certo. Bravo, c'è, dietro a tutte queste leggi inique, ovviamente. Che ora, leggi? Le persone sole, ad esempio, sono le maggiori acquirenti del mercato. Viva Pro, viva i proci! Ora, se noi vogliamo parlare della discriminazione, sì, allora diciamo, negare la diversità uomo-donna, sì, che sono... Scusi, ma se due si baciano, si vogliono bene, questo famoso love is love... E en passant si inchiappettano, qual è il problema? Questo love is love è un negare la diversità, no, ma anche fuck is fuck, oltre che love is love, anche fuck is fuck, possiamo anche dire questa cosa, nel senso, cioè, che... Gentile signora... Lei è molto simpatico. Ma io le dirò questo. Ciao Pacchiotti, se due, se Pacchiotti due... per decidere, no, dove va, allora, messo l'arnese, diciamo, quello che... Ascolti, che una cosa... Cioè, chi siamo noi per decidere dove va messo? Sono casi singoli. Un'altra cosa sono le lobby. Le lobby. Le lobby che vogliono imporre delle ideologie loro. Allora diventa discriminazione verso di me che sono donna, verso di lei che può essere uomo e padre. Sì. Mi capisce? No, e poi nascono degli interessi enormi con l'acquisto. Sì. Per esempio, due uomini non possono ovviamente figliare. Ma sono malati, no? Secondo lei, gli omosessuali? Come dice? Sono malati gli omosessuali, secondo ma diciamo che possono avere dei problemi nati anche in famiglia, sì, il certo. Più delle volte da violenze in famiglia. Violenza in famiglia, certo. Uno non può nascere con la preso a Radio Padania questo. Non può... La questione di nascere così è abbastanza difficile. Possono esserci dei fenotipi o delle cose differenti, però non facciamone un scusi, caso. Ma se uno semplicemente ha voglia di inchiappettarsi, allora, un proprio simile, o ha voglia di l'omosessualità. Facciamo un bel distinguo. No, non cominciamo. L'omosessualità è l'essere gay. L'omosessualità, ci sono delle famiglie che addirittura cercano di mettere a posto questi figlioli, e c'è il NART di James Nicolosi in America che cerca psicologicamente di aiutare questi egodistonici. Si può guarire dall'omosessualità, secondo me. Ma certamente. Poi certamente, ci sono le lobby gay, che invece cosa fanno? Ma allora, non potendo aver figli, è un essere umano vero, cioè lei è vivente, ma mi dica, cioè non è un robot, è vivente, no, ma sto dicendo, lei è vera, è reale, cioè non è una... Come no, io sono una donna e no, non sono... ma è un modo di parlare, che... figli lei, signora. Mi ascolti, ma c'entra le pure... volevo spiegare gli interessi che ci sono dietro questo. Ma c'è pure la massoneria, secondo lei? Questa è la prima cosa che sta dominando attualmente tutto, ma da parecchi anni. Cioè, un complotto che c'è in atto da tanto, a partire dal darwinismo, a partire dai giacobini, a partire dalle femministe di un tempo. Bravo! Darwinismo, giacobini... Bravo, ce la faccio più. Egalité, fraternité. Le spiego. Sì. No, non c'è da Se due uomini vogliono avere un figlio, cosa fanno? C'è un listino prezzi. C'è un listino prezzi. Degli ovuli delle signorine di Oxford o delle università che hanno un prezzo, perché hanno gli occhi azzurri, un quoziente intellettivo. Piuttosto la casalinga di Voghera costa un po' meno. Sì. Allora vanno e comprano l'ovulo. Cosa fanno? Vanno a cercare un'indiana. Sì, ma per dire che poverina, e le impiantano nell'utero in affitto. Questa creatura, questa povera creatura che nasce. Questa povera creatura che nasce. È certo, perché nasce da un acquisto che è così ficcato. Ma lei lo totalmente. Sa, lei lo sa che è circondata da proci? Ma non è detto, perché questo è una menzogna che ha creato un tizio. Lei lo sa che nella vita, lei intorno a dove abita lei. Questa qui è pieno di froci. È una menzogna che ha detto un tale, no, ma è che vero, è pieno di froci. Interessato. È pieno di froci, è pieno di omosessuali, di gente che si vuole bene, ma non che fa detto. Che fa l'amore. Guardi. Cioè, se lei vede due che si baciano, due uomini, che reazione ha? Ma fa molto piacere, ma soprattutto loro saranno molto infelici, perché le coppie gay, ma chi lo sostiene? Sono le più promiscue. Lei sta parlando probabilmente del rapporto Kinsey. Rapporto? Il rapporto Kinsey, questo signor Kinsey, non posso più. Signora Pacchiotti, ha devo tirato fuori delle balle, mi scusi il termine. La devo salutare, arrivederci. Va bene, la lascio. Buona serata, grazie della chiacchierata. Arrivederci. Vale. Non ce la faccio. Ermanno, provincia di Modena, per chiudere. Ermanno, dammi una mano tu. Provincia di Modena, benissimo, do una mano. Vai. Parliamo di Alba Parietti, che è una bella donna, molto alta, in carriera. Gli ha fatto anche dei complimenti perché vada in Parlamento a tirar su quegli mosci del DS. Io volevo dire ad Alba Parietti che per 30 anni hanno... Posso parlare? Sì, dimmi. Ecco, per 30 anni hanno nelle feste dell'unità dicevano l'Africa agli africani. Bene, adesso l'Africa ce l'hanno tutta, se la tengono la loro Africa. Perfino Andreotti ha detto che l'Africa ha tutti i tesori che il Padre Eterno ha messo domani, in terra. 18 Quindi 30, che problema ci hanno? Domani 18:30. Domani. Tu hai una malattia, tu fai una domanda e poi parli sopra a quello che dovrebbe dare una risposta. Non è che conduci, tu dirigi, cioè dirigi il traffico. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma chi ti si piglia, Crociani? Radio 24. La passione si sente.